È morta Osina! È morta! Orbene, adesso venga Arcippo e Zanaida! In un istante! Or mi sembra che il duolo s'alleggerisca, e l'ira era qui pronta! Via! Non è più tempo di versar pianti. Quello che a morti diè l'onore ti conferma in sposo. Io d'Arcippo, ma come posso, oddio? Come potesti peccar con debolezza, così devi la pena sostener con fortezza. Meglio mi sia morire. Che pensi? Ferma, ferma, traino, a parte ser devi. Che vuoi? Qui,